Il benvenuto sulle frequenze di Rock FM dalla voce di Marco Gravelli nello spazio di Hard and Heavy. Come sempre offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. E come sempre il nostro buon autore Simone ha preparato tutta la tracklist di questa sera che ci permette di partire dall'Italia. Eh sì, un importante gruppo italiano, precisamente di Torino, autore di un ottimo hard rock che gran successo ha avuto in questo genere musicale nella seconda parte degli anni 80. Sto parlando degli Electra Drive, gruppo che trae la sua prima incarnazione nel 1981 a nome Overdrive, cambiato due anni dopo nel definitivo Electra Drive. Dopo un singolo uscito nell'84, corrono due anni per arrivare all'album di debutto. Infatti nell'86 esce Over the Space, che ottiene delle ottime recensioni. L'etichetta però purtroppo fallisce e così, dopo averne trovata una nuova, arriva il secondo album dal titolo 2 del 1989. Questo lavoro si rivela superiore all'esordio e viene acclamato dalla critica non solo italiana ma anche europea. Questo successo gli vale una data di supporto ai Sabbath e Manowar ed inoltre diverse date a Los Angeles. Con tutti questi impegni occorre il 1993, quindi come annata, per la pubblicazione del terzo album Big City, che conferma l'ottimo momento della band. Purtroppo però arriviamo al 1994. Ci sono diversi cambi di line-up con sostituzione del cantante, tastierista e bassista. La band attualmente è ancora in attività, con praticamente la classica formazione, e sta lavorando al prossimo nuovo album, il cui titolo sarà Living Four e la cui uscita è prevista per la fine di quest'anno. Dal loro secondo lavoro, intitolato appunto 2, andiamo ad ascoltare le note di St. Valentine Day, Electro Drive. Yeah. Erano proprio bravi, io me li ricordo, li proposi, li intervistai in un'altra emittente quando all'epoca non c'era ancora Rock FM, ma c'erano già questi Electro Drive, il loro secondo album intitolato 2, questa era St. Valentine Day. Andiamo in America, esattamente nel New Jersey, con una band che prende il nome da un famoso motivo dei Metallica, cioè Whiplash. Propongono del thrash metal, sono nati nel 1984, hanno prodotto 6 album. All'inizio, dopo 3 demo, riescono a ottenere un contratto con la famosa Roadrunner Records, che ne pubblica nell'85 l'album di debutto dal titolo Power and Pain. Curiosità è che nell'86 il batterista, che si chiama di cognome Scaglione, all'epoca 18enne, ha lasciato la band per suonare per un breve periodo negli Slayer, durante l'assenza del grande Dave Lombardo. Una volta rientrato Lombardo, Scaglione ha lasciato gli Slayer ed ha suonato in altre formazioni, per poi rientrare nei Whiplash una decina di anni dopo. In tema di batteristi dei Whiplash c'è anche da segnalare Joe Cangelosi, che ha suonato nell'album Cause for Conflict dei Creator. Andiamoli ad ascoltare allora dal primissimo album, si intitola Power and Pain, ve l'avevo appena citato, Whiplash, con le note di questo motivo dal titolo Red Bomba. chemicals on a pie. The heat is on until tonight like never before. Down on 27th, what she makes alone. Wolf, she's in your sight. Space and radio, take your appetite. Time, that's you got eyes. With the rainbow, fire up all night. Dark, do what you want. Take what you will, but you don't need to. Il thrash metal di questa formazione del New Jersey, chiamata Whiplash, dal loro primo album Power and Pain, abbiamo ritrovato le note di Red Bomb. Ritorniamo alle cose più recenti, loro arriveranno dal vivo tra pochissimo. Domenica 16 settembre saranno al Transylvania Live di Milano per un concerto di supporto al loro ultimo album, King of the Grey Island. Sto parlando dei Candlemass, che vede l'ingresso in formazione del nuovo cantante Robert Love, esperto del genere, visto che proviene da un'altra band che propone abbastanza doom, cioè i Solitude Eternus, in seguito all'abbandono di Messiah Marcolin che è avvenuto lo scorso ottobre. Love si segnala inoltre come il quarto cantante della storia dei Candlemass. Per quanto riguarda il lavoro, è uscito a giugno, ci sono 10 brani, delle quali una è un intro ed altra è un interludio strumentale. Li ascoltiamo con questa Emperor of the Void, dal loro nuovo album, la formazione è quella dei Candlemass. We'll be right back. dopo il prologo, questo è proprio il motivo che apre l'album Emperor of the Void, dall'album King of the Grey Island, il nuovo per i Candlemass che domenica 16 saranno dal vivo a Milano alla Transylvania Live. Ritorniamo nell'America degli anni fine 80 con l'unico album pubblicato da questa formazione. Erano un quartetto, si chiamavano Trigger, arrivano dalla Cleveland, fautori di un metal pop energico, scoperti e messi sotto contratto dell'etichetta Casablanca Records grazie al bassista dei Kiss, cioè Gene Simmons. Hanno al loro attivo un unico album, un vinile, pubblicato nel 1978 esattamente, dove a volte ricordano i Babies, altre volte fa capolino la musica dei Kiss, di cui questi Trigger, diciamo, forniscono uno dei rari esempi di brillante, possiamo definire, plagio dei Kiss, anche se loro assolutamente non erano col make-up a viso scoperto, senza grossi particolari costumi, eccetera eccetera. Quindi Trigger, che andiamo a proporre da questo loro primo album, proprio col brano che apriva il vinile, Somebody Like You. il titolo del brano, Somebody Like You. Raramente potete ascoltare questi suoni, questi lavori, anche perché a volte molto difficili da reperire. 1978, dall'unico album degli americani Trigger, che era Somebody Like You, l'album si intitolava Trigger. Chiudiamo un po' lo spazio del passato con la prossima band, che arriva dal Quebec, Canada, con alle spalle due album. Si chiamavano Death Dealer. Riguardo il gruppo, nasce nell'80 col nome di Death Dealer e con questo registrano un demo. Cambiano poi il nome nell'attuale, che si pronuncia uguale però si scrive diverso, Death Dealer, cambiando il TH in F, e partecipano appunto alla compilation Metal Massacre volume 4. Ottengono poi un contratto di distribuzione in Canada, America ed Inghilterra. Arriva l'esordio nel 1986 con l'album Keeper of the Flame. Però, nonostante le premesse, l'album non riscosse lo sperato successo, perché furono accusati di essere troppo simili agli Iron Maiden. Siamo nell'86. La band però l'anno seguente registrò il secondo album, Journey into Fear, che non fu mai pubblicato, almeno sino al 2005, ma solo come bonus CD allegato alla ristampa del primo album d'esordio. La band ad oggi comunque non esiste più. Il lavoro, tengo a precisare, venne pubblicato il primo album dalla Roadrunner Records. Andiamo ad ascoltare il brano che chiudeva l'album, Dead Zone, Death Dealer. Dead Zone, il titolo di questo pezzo dall'album, il primo di questa formazione del Quebec. Andiamo a chiudere invece con una ballad, con qualcosa di molto recente. È l'esordio solista per il 37enne cantante inglese noto per la sua militanza nei tedeschi Pinkerton 69. Si chiama David Reedman e l'album porta il suo nome. Personaggio, diciamo, non forse troppo famoso, però molto stimato nel panorama dell'hard rock. Importante per lui è stato l'annata del 94, quando è entrato nei Pinkerton 69 a sostituire Andy Darris, che era a sua volta entrato negli Halloween. In questi 13 anni di militanza nei Pinkerton ha inciso ben 7 album, oltre ad aver preso parte come special guest al progetto chiamato Free ed aver partecipato, sempre in veste di special guest, ad un album di Adagio, DC Cooper e Silent Force. L'album è uscito tramite Frontiers Record, presenta 12 canzoni di ottimo hard rock melodico. David, oltre a essere cantante, si è occupato anche delle tastiere e delle chitarre. Presenti diversi musicisti, come il tastierista dei Vandenplas Gunter Verno e l'esperto del genere Tommy Denander alla chitarra. Realizzato anche il video Don't Let It Slip Away. Oggi lo ascoltiamo con questa ballad, la traccia numero 3 dell'album, che si intitola Take These Tears, David Reedman. It all. You're showing no. Abbiamo aperto con le note di questa canzone che si intitola Inner Sanctuary, dove canta Marco Jietala dei Nightwish, la seconda parte di Ardent Heavy. Appuntamento che trovate ogni sera insieme a Marco Gravelli dalle 20 alle 21 qua su Rock FM. Di che cosa si tratta? Dunque, Nuclear Blast All Stars, ed è una... Nuclear Blast è il nome dell'etichetta. All Stars sono tutte le stelle che hanno partecipato, che suonano nel corso degli anni in questa etichetta, che in occasione del ventesimo anniversario di nascita ha voluto pubblicare questo primo album che si intitola Into the Light, che verrà seguito il 21 di settembre da Out of the Dark, un altro doppio CD dove ci sono canzoni nuove che sono state praticamente scritte, composte dal chitarrista bielorusso dei Rage, Viktor Smolsky, interpretate vocalmente da una marea di cantanti, vi cito, cantante degli Edguy, Rage, Sonata Artica, dei Crux, Destruction, Blind Guardian, Halloween, Communique, Nightwish, eccetera eccetera. E il secondo CD in questo caso prevede invece delle rare B-side delle band. Quindi abbiamo ascoltato questo brano dove canta appunto Marco Jietala dei Nightwish. La prossima invece formazione che andiamo a proporre esce su etichetta spagnola Locomotive Records con il terzo album. Loro sono danesi, si chiamano Anubis Gate, sono in cinque e propongono un heavy metal a tratti progressivo. Il leader del gruppo è il chitarrista Jasper Jensen, che ricordiamo aver suonato come bassista nel gruppo degli Invocator. Dopo questa esperienza lascia la band, ritorna ad Aalborg in Danimarca, decide di suonare la chitarra, milita dapprima in una rap metal band, ma in seguito decide a sua volta di creare un nuovo gruppo di heavy metal melodico, appunto questi Anubis Gate. Dopo aver composto alcune canzoni, registra nel 2003 l'album d'esordio dal titolo Purification, che viene distribuito tramite appunto la Locomotive Record in Europa e in America. Il secondo arriva l'anno seguente, si intitola Perfect Forever, e nel 2005 arriva praticamente questo nuovo album, questo nuovo lavoro, si intitola Andromeda Unchained, che vede alla voce il cantante Jacob Hansen, proprio lui, già suo amico, già cantante degli Invocator, nonché produttore dei due precedenti album. Questo nuovo Andromeda Unchained è stato registrato in Danimarca presso gli studi privati di Jacob Hansen. Un lavoro davvero interessante, niente male. In effetti vado a proporvi questo brano, si intitola Andromeda Unchained, quello che dà il titolo all'album, per gli Anubis Gate. Oh, Heavy metal a tratti progressivo per i danesi Anubis Gate con questo nuovo lavoro Andromeda Unchained, titolo dell'album, titolo anche del brano che oggi vi abbiamo proposto. E arriviamo come ogni sera nell'ambito del nostro spazio dedicato alle Metal News. Diversi gruppi al lavoro, diverse uscite nel mese di ottobre-novembre. Cominciamo con John Oliva Spain. La band americana sta lavorando al nuovo album. 15 tracce sono già state completate, così come è stato scelto il titolo e la copertina. Per quanto riguarda la pubblicazione, avverrà su etichetta AFM Records e si parla del 28 febbraio del 2008. Gli In Flames hanno da poco completato il loro tour, ma sono già pronti per la produzione del nuovo album, la cui uscita è prevista per il 2008, si parla anche in questo caso della primavera. La thrash metal band americana degli Exodus ha da poco stipulato un contratto con la Nuclear Blast. Registrerà questo mese il video di supporto al singolo Riot Act, tratto dall'imminente album dal titolo The Atrocity Exhibition, la cui uscita è prevista per il 23 di ottobre. Sarà la Massacre Records a pubblicare il nuovo album per la thrash metal band canadese degli Exciter. Il titolo è Thrash Speedburn, 10 brani pubblicati il prossimo 9 di novembre. Parliamo dell'ex cantante dei Nightwish, Tarja, che ha registrato un video per la traccia I Walk Alone, tratta dal prossimo album solista, che si intitola My Winter Storm, che verrà pubblicato il 9 di novembre. Il singolo uscirà invece ad ottobre. Invece è spostata la data di pubblicazione del nuovo album per i Venom, si parla all'inizio del 2008 perché hanno deciso di reincidere delle tracce. Uscirà invece il 7 di dicembre un best of, il primo della carriera per Udo. Curiosità è che la tracklist è stata scelta dai fan tramite inviando semplicemente delle mail. Nel frattempo Udo arriverà in Italia per due date, il 15 ottobre all'Alcatraz di Milano, il 16 all'Alfeus di Roma. E di supporto ci saranno i bravi connazionali Primal Fear, band dell'ex cantante dei Gamma Ray, Ray appunto Ralph Shippers, e del bassista Matt Sinner. Usciranno con un nuovo album che si intitola New Religion su etichetta Frontiers Record il prossimo 21 di settembre. Noi lo abbiamo già, ve lo proponiamo, ve lo presentiamo questa sera in anteprima con la traccia che apre l'album, ovvero sia Sign of Fear, Primal Fear. l'anteprima questa sera in Hard and Heavy insieme a Marco Gravelli con i Primal Fear dall'album New Religion. Questa è Sign of Fear con la voce sempre molto Rob Halford di Ralph, la produzione di Matt Sinner e numerosi special guest dalla bonazzona Simone Simons, cantante degli Epica, a Tobias Lundgren, abbiamo ancora Mats Ulmer, Magnus Carlson, eccetera, tutti presenti in questo nuovo album dei tedeschi Primal Fear. Andiamo invece ad un album 5 stelle Hard and Heavy, anche questa sera ne abbiamo uno, ieri sera quello dei Circus Maximus e questa sera quello degli Amorphis, gruppo che molti magari conosceranno. Questo è veramente un grande album, si intitola Silent Waters, è l'ottavo lavoro per la band finlandese ed è il secondo con il nuovo cantante Tommy Jutsen, proveniente dai connazionali Nevergreen, che successivamente hanno cambiato il nome in Sinistra. Con il suo ingresso ritorna il cantato gutturale. Silent Waters è un concept album suddiviso in 10 tracce che si basano nuovamente sul Kalevala. Per quanto riguarda la copertina si sono avvalsi nuovamente dell'esperto Travis Smith. Andiamo ad ascoltare il brano che dà il titolo all'album, cioè Silent Waters, è anche il singolo, nonché video. Ripeto, questo è un album che consigliamo sia io che Simone, un Hard and Heavy 5 stelle, il nuovo degli Amorphis. Yeah. uscito da poco su etichetta Nuclear Blast, un album che vi consiglio se volete investire qualcosa, effettuare un acquisto. Questo Silent Waters degli Amorphis, titolo dell'album, vi ho proposto questa sera il singolo. Andiamo a chiudere, visto il tempo, con una band italiana. E avremo modo poi di intervistarli e quindi di conoscere di più di questo gruppo che si chiama Derdian. Il lavoro si intitola New Era Part 2, War of the Gods. È uscito su etichetta Magna Carta, un'etichetta per la quale vengono distribuiti album di Mike Pornoy, Jordan Rudess, Steve Morse, quindi grande etichetta, grandi musicisti. Questo è il secondo album per questa band di symphonic power metal italiano, precisamente di Milano. Sono in sei, creati dal chitarrista Enrico Pistolese e dall'ex batterista Marco Covelli, che ha suonato solo nel primo demo del 2001. Il gruppo nasce nel 98 quando proponevano un thrash metal che poi hanno cambiato a livello di impostazione di sound verso questo power metal. Nel 2005 arriva l'album d'esordio dal titolo New Era Part 1. Questo è il secondo, si intitola New Era Part 2, War of the Gods. Ci sono 10 tracce più un intro, registrate presso i Virtual Live Studios di Vedano all'Ambro e mixato e masterizzato presso i Moon House di Milano. Vi lascio con una traccia di Hunter, che se non sbaglio è anche il video. Vi lascio con questa canzone. Ci ritroveremo naturalmente domani sera ancora su Rock FM dalle 20 alle 21 per lo spazio di Hard and Heavy. Un grazie a Simone, il nostro autore, Mariposa Dischi, lo sponsor. A voi che mi avete seguito, vi auguro una buona serata, una risentirci, a domani. Ciao ciao! A few